Druido e cavaliere, ad ogni viaggio trasportate 16 kg di legna, ma un quarto di questo carico è inutilizzabile. Quanti viaggi vi servono per ottenere almeno 50 kg di legna buona da bruciare?